Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sono io che devo stare a Southfork. È mio, è solo mio. Sono tornati per regolare conti in sospeso. Ho degli affari di famiglia di cui occuparmi. Chiudere vecchie ferite. Pronta per il miracolo? Prendi in mano la BB Cream e datti da fare. Pronte per vedere il risultato? Non crederete ai vostri occhi. Viaggiatori, benvenuti in India. Siete le 10 coppie che vivranno l'avventura di Pechino Express. 3, 2, 1, parte Pechino Express! Certo che ormai ascoltare un audio televisivo assomiglia a una litania di rievocazione di un defunto. Non voglio toccare le sensibilità individuali di chi giustamente, correttamente, eticamente, tradizionalmente dedica questa giornata al ricordo dei defunti. Io vorrei dedicarla però al ricordo del defunto che più probabilmente ha dato un senso alla mia vita, la televisione. Io per anni ho guardato la televisione, l'ho guardata in religiosa attenzione, l'ho guardata come si guarda un oracolo, come ci si rivolge a una pizia, a una profetessa, a qualcuna che dà dei segnali su quello che è l'attualità, il presente, ma non soltanto, verso il futuro. L'ho guardata, l'ho raccontata, l'ho eviscerata, è come se fosse un grande moribondo. Io, il medico, cercavo di individuarne i sintomi della malattia. Oggi ho smesso di parlarne da parecchio tempo, chi segue il mio iter radiofonico lo sa bene, ma perché? Perché è inutile parlare con un morto già bello e putrefatto, è molto poco stimolante. Non ho più trovato spunti di attenzione e di novità, soprattutto non ho più trovato una televisione spunti indicatori di ciò che in realtà accadeva o sta per accadere nella società. Lo ha dato la televisione degli anni 80, degli anni 90, fino diciamo ai primissimi anni del 2000, quando il reality si è andato a fondere con la nostra attitudine italiana a sciorinare i propri panni sporchi alla finestra, o i propri panni puliti, o i propri panni ripuliti, e mostrarle l'attenzione del vicinato. Poi non c'è stato più nulla, poi la televisione è come scomparsa. Allo stesso tempo è andato crescendo un interesse, un'attenzione per quelli che erano i derivati della televisione. Diciamo che le generazioni più attempate, i figli della televisione degli anni 60, coloro che furono generati su un tavolo di formica, modello svedese, di fronte a un televisore acceso sui primi programmi degli anni 50, ancora hanno qualche palpito e qualche attenzione per i programmi televisivi che vengono somministrati come novità, di cui abbiamo avuto in questa copertina qualche pallido assaggio. L'ultimo finto reality registrato con l'erede al trono Savoia che fa il conduttore, così mixano insieme alcune attitudini, alcune nostalgie, che ancora rimpiange il famoso referendum e dicono ci hanno fregato, volevamo il re e la regina, è tutto contento di vedere finalmente restaurato il trono dei Savoia, ma allo stesso tempo guarda qualcosa che non appartiene più alla realtà. E gli altri cosa fanno? Cosa fanno gli altri? Lo vedremo di capire questa mattina. Non vogliamo fare una trasmissione soltanto funebre, soltanto piangere il morto e celebrare le sue gesta, ma vorremmo anche vedere quale sarà il momento della sua risurrezione. Oh, youtubers, amanti del web, fruitori del mordi e fuggi, a voi che vi piace guardare queste cose piccoline così, mi sentite? Eh? Guardatela. Che va fatto? Che va fatto? Questa ci ha fatto emozionare da una vita. Io ci ho viste mondiali del 1970 in bianco e nero. Ci abbiamo riso, abbiamo pianto con quella là. E voi clicco, vedi tutto cosa così. Ora ditemi voi un motivo. Ditemi solo un motivo per cui noi dovremmo passare da lei così bella, grande, tutto piccolo, piccolino, tutto piccolo. Ditemi voi perché. Ditemi. Questo è Fiorello che parla con un televisore. Ora, Fiorello, si può dire quello che si vuole, è un ragazzo molto intelligente, anzi un bel furbacchione, è molto bravo, perché sta cogliendo una tendenza che non necessariamente metabolizza, sente sulla sua pelle, fa sua. L'alternativa al vecchio antico televisore, all'hardware mastodontico del televisore scaturigine di tutti i suoi ricordi fanciulleschi è le cose piccole, probabilmente lo immagina, questo deriva dalla sua professione di testimonial illustre, la televisione guardata su piccoli monitor, ma oggi dovrebbe sapere che i monitor dei nostri computer sono assimilabili sia per qualità e anche per dimensione, molte volte a un normale televisore che entra nel salottino medio di una media famiglia italiana. Achille Correa, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Achille Correa, lo ricordate, è una voce di Radio 24, è un conduttore radiofonico, quindi ma anche uno sceneggiatore, soprattutto un attento osservatore delle mutazioni e dei costumi del mondo giovanile, anche se ormai comincia a rasentare l'età in cui non si è più giovani. Allora, sei d'accordo sulla intelligente paraculata di Fiorello in questo suo monologo col televisione, cosa vuol dire? Guarda, questo pezzo di audio che abbiamo sentito in realtà è molto interessante perché è un monologo di Fiorello che apre una nuova webserie, una serie pensata esclusivamente per la rete, che si chiama YouTubers, che in realtà è una serie per internet fatta però da attori e già un po' famosi in televisione, gente che viene dai Cesaroni o da Amici o da Notte Prima degli Esami, ed è, dovrebbe essere una parodia dei YouTubers, cioè di quelli che producono video per internet, fatta un po' per strizzare l'occhio alla rete. Questo monologo di Fiorello apre la prima puntata ed è stato preso malissimo, cioè nei commenti dei frequentatori di YouTube sono arrivate una sequela di critiche e di insulti tipo della serie tornatevene a casa vostra, cioè è stata vista come un'invasione di televisivi o paratelevisivi nei confronti di un mezzo che invece appartiene ai giovani, appartiene ai debuttanti, appartiene ai talenti nuovi. Quindi anche questa Fiorello... è la grande illusione degli sfaccendati che hanno la rete come unico luogo di espressione della loro creatività. Non è un discorso discriminatorio, ma visto che io mi devo sentire dire tutti i giorni infame, venduto, giornalista, schifoso, figlio del potere, mi sono anche lievemente stancato, e quindi beati voi che avete un sacco di tempo da stare in rete a seguire ogni moto, ogni sussulto, ogni parola con Wikipedia a portata di mano, pronti a correggere ogni virgola che ognuno dica. Infatti è abbastanza evidente che i commentatori di internet non sono esattamente i più ben disposti nei confronti dei grandi nomi, però insomma, è interessante notare come qualsiasi video fatto da uno sconosciuto può venire accolto molto bene, mentre questa, anche con la presenza di Fiorello, che pure su Twitter è stato uno dei primi VIP a cavalcare il mezzo molto bene, è stata vista come la TV vecchia che cerca di appropriarsi del mezzo giovane, che invece da molti viene visto come una cosa dura e pura. Io ti dico come la penso in proposito, poi ognuno sarà libero di prendere tutte le distanze. Allora, questo è un esempio, secondo me, di dissolvenza incrociata fra due universi. L'universo della televisione ormai in via di scomparsa sta organizzando la propria arca di salvezza e guardalo, ci sono delle terre per poter ricominciare a colonizzare. La rete è sicuramente una di queste terre, anche perché la differenza è minima da questo punto di vista. Si tratta semplicemente di organizzare una distribuzione, la rete è già di qualità, la televisione è rete già di qualità, e soprattutto reinventare quello che è un formato che è compatibile per la rete. Ma la rete non sono questi signori che dicono come pelle rossa, questa è terra nostra, nessuno la tocchi, noi solo siamo il popolo della rete. Il popolo della rete non esiste. La rete comincia a diventare di tutti quando tutti avranno possibilità di accedere a contenuti che a loro interessano in rete. Non a tutti interessano le facezie, i recensori, le signorine che insegnano come truccarsi, le gemme del sud che cantano canzoni sgangherate e attizzano processi inarrestabili di imitazione. Probabilmente sono persone che vogliono, ormai cominciano a pretendere, che dalla rete, che è l'unico vero grande sostituto della televisione morente, comincia ad esserci qualcosa di strutturato, non soltanto chiacchiere in libertà, riprese senza arte né parte. Quindi che entri qualcosa che appartiene al mondo tradizionalmente strutturato della creazione dello spettacolo in rete è positivo. La cosa che hai detto giustamente è che Fiorello in realtà non è credibile. Fiorello è credibile come il re dei twittatori che entra e esce, fa un evento, perché Fiorello è fortemente appoggiato dal sistema tradizionale di diffusione dell'informazione, che ogni ruttino che fa Fiorello diventa un evento, va nelle prime pagine dei giornali, quindi il mainstream appoggia Fiorello, è giusto che sia così. Una volta che si affaccia a rete, ma questa è una resistenza ridicola, saranno spazzati via dal prodotto se il prodotto avrà un mercato. Sì, in realtà credo che in questo caso specifico forse sia stato un po' toppato l'approccio, perché fare una serie con dei volti televisivi che vuole essere un po' un ammiccamento, una presa in giro nei confronti di quelli che fanno i video su internet, probabilmente è sembrato un po' arrogante. Bisognava inventarsi un'altra cosa. Ma cosa accadrà? Accadrà che in rete nasceranno gli emulatori, i doppiatori, coloro che rideranno questa serie. Questa serie avrà un suo seguito, perché saranno quelli che gli spareranno addosso. E come sempre esisterà comunque. Esattamente, ma c'è comunque tutto un fenomeno di serie che vivono proprio un'altra vita. C'era qualche tempo fa, c'era stato un hashtag di grande successo che era un grande canile, che era in realtà la presa in giro di una grande famiglia, una fiction di Canale 5, di cui tutti parlavano per prenderla in giro, ma nel frattempo la guardavano avidamente e voracemente. Devo dire che uno dei motivi di sopravvivenza di icone spenta televisione, di cadaveri ambulanti, di conduttori importanti e noti della televisione tradizionale, è il fatto che in rete esistano delle aree cult dove queste persone vengono prese in giro. La Clerici è conosciuta dai miei figli per una sua battuta infelice sulla sua passione per il calcio, e la riguardano continuamente, e per questo se la ricordano, non per tutto il resto della sua carriera. Mariano Sabatini, buongiorno. Buongiorno, che piacere ascoltarti. Allora, Mariano Sabatini è un collega, perché è uno delle persone, un ex collega anzi, che non me ne occupo più di televisione, è una delle tre o quattro persone che ancora si occupano in Italia di guardare la televisione e di raccontarla. Ha scritto recentemente un libro che è uscito proprio da pochissimo tempo, è la TV Bellezza, se la conosci puoi difenderti, edizione Lupetti. Allora Mariano, qua hai raccolto quello che sono le tue riflessioni quotidiane, tu ancora hai voglia, hai passione nel guardare la televisione, sei d'accordo che, fermandoci all'episodio che abbiamo toccato adesso, che questo passaggio di Fiorello, di apertura, di sconfinamento fra televisione e luogo della rete, sia da prendere in considerazione perché è un esperimento perlomeno interessante? Sono d'accordo su quello che hai detto, che Fiorello è un furbone, è uno che fa parlare di sé in ogni modo, trova degli espedienti, anche quello di Twitter, quello di YouTube, si appropria di strumenti che probabilmente neanche conosce. Però è un gran mestiere anche questo, dammi sì, atto. È un gran mestiere anche questo, e in generale c'è, non soltanto da parte di Fiorello, un tentativo in atto da parte dei personaggi televisivi tradizionali di colonizzare la rete, per togliere in qualche modo forza propulsiva a chi la rete la potrebbe usare per scrivere di loro, insomma cercano di evitare la mediazione con il pubblico, la mediazione attraverso... Però tu sai che la rete senza mediazione con le persone che popolano la rete rischi come quei politici che su Twitter dicono ah infami bastardi se vi prendo, perché solo li criticano, fa un po' ridere. Sì, ma non c'è interazione. Io quello che vedo è che questi personaggi che sono su Twitter hanno interazione tra di loro, tant'è vero che si beccano, litigano, discutono tra di loro, però poi vedo per esempio alcuni insulti all'indirizzo di Salvo Sottile, lui non risponde a questi insulti, cioè non entra in contatto reale con sì, il ma pubblico. Sì, ma un po' tutti i grandi personaggi della televisione non entrano in contatto con il loro pubblico, perché? Perché non sono abituati a farlo, perché appartengono a un mondo diverso. E qui quindi ti dico che c'è è un uso strumentale della rete, non è una reale voglia di comunicazione, di raggiungere il pubblico in modo meno mediato dalla stampa, dagli addetti stampa, è un uso tanto per esserci, ecco, ho questa sensazione. Adesso vi faccio un altro esempio che dovremmo commentare assieme. Un contratto a 6 cifre, 16 candidati pronti a giocarsi il tutto per tutto, 10 prove da superare, un colloquio di lavoro come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss. Discusso, controverso, spesso criticato. Di sicuro, un uomo che ha preso in mano il suo destino. Ora, Flavio Briatore cerca il nuovo numero uno a cui offrire l'occasione della vita. Queste sono le sue regole per vincere. Ecco Mariano, questo è un programma di cui si è parlato molto. Il programma in cui Briatore decideva quelli che potranno essere i futuri manager. Divertente, interessante, per quel poco che mi è capitato di vederlo casualmente, faceva anche sorridere. Ma parliamo di successo reale, è ancora certificabile oggettivamente il successo di un programma? Oramai è la panna montata che si crea attorno, che fa sì che di un programma se ne parli, e la popolarità nei media equivale a un reale concreto successo? C'è un audience percepita e un audience poi reale, poi quanto sia reale, insomma i televisivi si misurano su sì, questa... Sì, è sempre stato un termine molto ipotetico. Sì, infatti. Questo MasterChef, questo The Apprentice, tu lo consideri divertente, io l'ho trovato un po' grottesco con questo Briatore che... sembra la caricatura di un manager. Beh, vedere i ragazzi che tremano di fronte a Briatore come se parlasse col padrone del vapore veramente. Capito, cioè, l'obiettivo è parlare come un camallo di Genova. E io mi interrogavo su se realmente uno così può essere considerato un modello, tra virgolette, un modello vincente. Ma è importante che sia realmente un modello vincente, non siamo nel grande mondo della rappresentazione. È importante che la televisione lo rappresenti come modello vincente. Anche, come dire, l'apparato scenografico, il linguaggio scelto, spinto alla drammatizzazione estrema, ha fatto sì che lui apparisse come un personaggio di successo, poi insomma con tutto il grottesco che si porta addosso e che incarna. La stessa cosa è accaduta, se vuoi, dal punto di vista del linguaggio con MasterChef, ecco perché prima mi sbagliavo, c'era questa drammatizzazione applicata alla cucina, questi aspiranti chef che si genuflettevano di fronte... Diciamo che le sfumature di grigio passano dalla camera da letto alla cucina, è sempre un rapporto sadomasochistico. Sfumature di gricia diventano. Achille Corea. Beh, volevo dirti, cioè, pensavo una cosa mentre parlavi del contorno che c'è sui media, in rete, di alcuni programmi televisivi. È vero che di alcuni programmi televisivi che fanno anche numeri di ascolto consistenti non ne parla nessuno su internet, sui giornali, e per questo probabilmente sembrano meno interessanti di cose che mi riferisco a certi programmi magari che vanno sul digitale terrestre, che sicuramente fanno ascolti non proponibili per le grandi reti e che però hanno moltissimi follower su Twitter. Che la famosa buona televisione che tutti inseguivano da anni. Ma in realtà a volte anche una televisione più trash che però ha una bella immagine su internet. Se sommi quelli che la guardano per prenderla in giro a quelli che la guardano per passione, alla fine hai tanta gente che ne parla, è comunque un merito. Facciamo un altro esempio. Ok, fermi tutti. Che succede? Cioè ragazzi, nessuno si ricorda niente. Bene, dove siamo? Siamo sotto casa mia. E tu sei la mia ragazza? No, non è possibile. Cioè, qualcuno deve ricordare qualcosa. Quindi? Aspetta un attimo. Io mi ricordo di te. Tu mi sei tipo saltata addosso. Che c'è? Che hai visto? C'è Pedro Bear? Che cazzo è quello? Mi rendo conto che sentire soltanto l'audio non rende l'idea del prodotto. Sembra di... vedere un esperimento di post neorealismo. Achille Corea, di cosa si tratta? Questa invece è una serie completamente nata dal basso, che è Freaks. Sono alcuni ragazzi, per lo più romani ma non solo, che sono delle YouTube star, cioè gente che sui loro canali di YouTube fa 100.000, 200.000, 300.000 visualizzazioni per ogni video. Si sono messi insieme, hanno fatto una di quelle serie TV che in Italia non producono a prescindere, molto ispirata a serie TV inglesi o americane sul paranormale, su giovani dotati di superpoteri, e mettendola su internet, su YouTube, sono arrivati a milioni di visualizzazioni, arrivando, e questo è un altro argomento, a quello che in questo momento in Italia sembra però l'unico risultato finale interessante, cioè essere comprati e ritrasmessi da una televisione vera, da una televisione ufficiale, che in questo caso è DJTV. Mariano Sabatini, dove sarà il famoso incontro a Teano? Quando saranno le due transumanze che si incroceranno? I cadaveri della televisione che andranno in internet pensando di ritrovare una terra promessa dove qualcuno ancora si ricorda di loro o hanno una nuova giovinezza, e i gli indigeni della rete, che lentamente, una volta stufati di fare i loro circoletti, di stravaccarsi sui divani con l'iPad in mano a seguire le trasmissioni politiche di Ballarò, via dicendo, lanciando messaggi su Twitter, si incontreranno e diranno: beh, noi andiamo fuori, voi rimanete dentro. Uno scenario di fanta televisione. Ma io, guarda, seguo pochissimo invece queste operazioni della rete televisive, perché sono impegnato ancora con l'altra. No, ma fai bene, se no si fa confusione. Con l'altra televisione, quella tradizionale. Però questo libro che ho scritto è un libro omeopatico, perché serve attraversare il tanto male che la televisione offre per ritrovare anche il tanto bene. Tu sai che io, prima che giornalista e critico televisivo, ho fatto l'autore televisivo, quindi per Luciano Rispoli tu hai... Continuo ad amare questo, sì, per Luciano Rispoli, dove tu venivi spesso, sì, tappeto, sì, volante. Ma è una televisione onesta, ancora con un tentativo di creare dei fili concreti e reali fra il rappresentato e il reale. È vero. Ma non esiste più. E però io continuo a dire, adesso mi attirerò i tuoi strali, che qui e là, in questa pletora di canali digitali, satellitari, premium, eccetera, qualcosa di buono c'è, si può costruire. In questo la televisione tradizionale è sempre più vicina alla rete, come dicevi, parlavi prima dell'accessibilità dei contenuti, ciascuno, secondo la propria sensibilità, cultura, gusto, può costruire il proprio palinsesto. Sai, Mariano, guarda, non è che sono un cattivista di maniera, è che la televisione è inaccessibile, nessuno può proporre, fare, produrre qualcosa in televisione al di fuori degli schemi tradizionali delle persone che ormai l'hanno espugnata e l'hanno fatta loro. Questo è il problema. Rispoli, che occupava tutto il palinsesto di Telemonte Carlo, che era la progenitrice di La Sette, adesso per esempio Cristina Parodi sta facendo un'operazione molto simile, quindi in questo la televisione non può che ripetere se stessa, però fa un pomeriggio diverso rispetto ai pomeriggi al sangue della D'Urso e della Venier. Fa un pomeriggio luminoso, ci sono delle idee, ha portato dentro i giornalisti stranieri che leggono l'attualità italiana, ci sono degli sprazzi di novità. La televisione dopo 60 anni fa fatica a reinventarsi, a proporre qualcosa di nuovo, però qui e là qualcosa di nuovo c'è, quindi così apocalittico non mi sentirei di essere. Quindi Mariano Sabatini, osservatore della televisione e ancora attento analista di ciò che passa per televisione, dà come un messaggio di speranza. Ci può essere un nuovo rinascimento, non è detto che sia tutta morta, ma anche dall'etame può nascere un fiore, e potrebbe nascere probabilmente nel salottino della Parodi. Eccoci qua, Danila, sei pronta? Sono pronta. Allora, è scesa Lauretta a darci una mano per sistemare gli ingredienti, perché esatto, avevamo tutta una serie di ingredienti, di cose da preparare in questo dolce. Sì. È una crostata al cioccolato. Ma si fa, ganache al cioccolato, ecco, sì. Ma si fa presto a dire crostata al cioccolato. Esatto. Ecco. Allora, questi sono gli ingredienti per la pasta frolla. Per la frolla, sì. Giusto? Quindi farina. Sì, zucchero a velo. Sì. Burro che deve essere molto freddo. Sì. Poi abbiamo il cacao amaro. Sì. Sospendiamo un attimo l'ascolto, perché parlando di questo ingrediente, essendo una mattina in cui anche le fasce protette ascoltano la radio, non vorremmo andare avanti. Ma è inutile che faccio questi biechi escamotage per dare interesse. Questa è una fase di recupero della televisione che abbiamo dato da tempo per morta. Abbiamo visto qualche annuncio nel deserto di possibile resurrezione. Abbiamo sentito Mariano Sabatini, che vede che ancora nella televisione esistano possibili aree in cui la televisione rappresenti una funzione per l'umanità. Ma arriviamo nel momento in cui la televisione sembra ormai sull'orlo del precipizio, vede come unica salvezza il riuscire a decodificare, a comprendere e a espandersi nel mondo della rete, che vede come una giungla impenetrabile popolata di persone aliene, quando in realtà la rete è esattamente quello che è la realtà concreta, semplicemente rappresentata in una modalità espressiva diversa. E abbiamo questo tipo di televisione di cui avete avuto un assaggio. La televisione che, per una sorta di effetto pavloviano, tende a tenere gli utenti di fronte a lei, solleticandoli con un fenomeno indotto nei loro sensi. La televisione notturna, lubrica e stimolante, appartiene ormai a periodi passati, non a caso all'esordio delle TV libere andavano a tutte le ore filmacci zozzi o signorine che si spogliavano su fondali nature di in chroma key, orrende fra l'altro, e adesso invece la televisione si è spostata in un altro senso, il senso del gusto, la televisione gastronomica, è la televisione che aiuta le persone che in quel momento guardano la televisione, quindi le massaie, le persone che stanno a casa, le persone che hanno orizzonti casalinghi e quindi limitati a un luogo fisico ben preciso, a guardare la televisione. E sono programmi anche molto divertenti, stimolanti, e chi li scopre, anche se non è appassionato alla televisione, li segue perché c'è una sua narrazione, c'è un suo sottotesto decifrabile e interpretabile. Su questo addirittura c'è una giovane scrittrice che ci ha scritto un libro, è Antonella Di Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, ciao. Antonella Lorenzo ha scritto Cuochi, Sorrisi e TV, la storia dei programmi di cucina che hanno fatto grande il piccolo schermo. Editori internazionali riuniti. Allora Antonella, io ricordo, tu venisti una volta a redazione Melog, mi chiedesti un contributo, non mi ricordo nemmeno se te l'ho dato o no, però qualcosa sicuramente di utile hai trovato nella nostra redazione. Il libro è uscito, dimmi esattamente innanzitutto il moto ispiratore del trattare la televisione della rinascita gastronomica. Allora, innanzitutto sì, mi hai dato il tuo contributo che mi ha aiutato molto anche a dare delle risposte, ecco. Guarda, l'idea mi è venuta sicuramente all'indomani di un quesito che insomma forse tutti gli italiani si pongono, ossia ma perché tutti questi programmi di cucina e perché proprio adesso? Quindi sono andata un po' alla ricerca negli archivi Rai e insomma in tutti gli archivi delle televisioni, da Tele Monte Carlo a Mediaset e via discorrendo. C'è un precedente storico, non è che nasce adesso. Esatto, uno dei primi programmi di cucina è del 1957, condotto da Mario Soldati, giornalista enogastronomico, dal titolo Viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini. Quindi i programmi di cucina non sono sicuramente nati adesso. E, diciamo che nel mio libro ripercorro, grazie anche ad un personaggio immaginario, fantomatico, professor Cook, la storia teleculinaria italiana, quindi appunto partendo da Mario Soldati, proseguendo con... Singolare cognome hai dato questo esperto in gastronomia, sembrerebbe più dedito ad altri piaceri, comunque dai, andiamo avanti. Cook perché adesso i programmi di cucina di adesso sono molto improntati verso lo show, quindi il cooking show, no? Molto internazionale, quindi mi è venuta questa idea, non più una cucina diciamo tradizionale professata molto da, come dicevo, Luigi Veronelli oppure da Mario Soldati, che appunto andavano a ricercare degli ingredienti. Una volta erano tutti questi gentiluomini, giornalisti, esperti di territorialità che si occupavano di cucina, era loro un vezzo che andava oltre la sua vocazione professionale iniziale. Oggi invece è molto differenziato il panorama dei divi della televisione gastronomica. Sì, certo, adesso con il digitale si è aperto un mondo, c'è molto spazio per tutti, insomma. E la logica dei programmi di cucina è cambiata perché si va verso quello che io chiamo il cuoco star, come lo nomina anche il professor Cook nel libro. Un cuoco che più che utilizzare la cucina in sé per sé come entità principale, la utilizza come processo. Vediamo Masterchef, ad esempio. Sembra un dungeon per pratiche sadomaso, però in quel caso la cucina diventa il luogo del terrore e della vessazione nei confronti di questi poveretti apprendisti cuochi. Però esistono anche altri esempi, molto più in linea con la serenità che dovrebbe ispirare il luogo della cucina. Abbiamo al telefono Francesca Barberini, conduttrice e volto femminile del Gambero Rosso Channel, che è il canale satellitare dedicato all'enogastronomia. Buongiorno Francesca. Buongiorno Gianluca. Anche tu hai fatto un libro, questo l'ho fatto io, 115 ricette tratte dal programma del Gambero Rosso Channel, edizione Vallardi e Gambero Rosso. Tu sei l'esatta antitesi del cuoco cattivo, del cuoco vessatore, del cuoco fighetto. Sei una tranquilla, felice, piacevole ragazza che apre la sua cucina e dà seri e interessanti elementi di confezione di cibo. Trovi che questa nuova deriva della televisione gastronomica, che poi nuova non è, come ha detto la nostra ospite poco fa, sia una delle vie di salvezza dalla televisione morente al suo stato finale? Allora, in cucina si parla tanto, forse anche troppo. Io forse ho la fortuna di non essere un cuoco, quindi tutto sommato ne parlo in maniera disincantata e divertita, lasciando poi spesso parlare gli altri, cioè i miei ospiti. Ma c'è un po' di antagonismo e di rivalità fra i cuochi veri, gli chef, quelli che vanno lì chiaramente tronfi della loro divisa e dei loro galloni, e i giornalisti gastronomici, chiamiamoli così, che più o meno è il tuo mestiere, racconti e descrivi un mondo che conosci professionalmente. Ma in realtà loro dicono di no, secondo me sotto sotto sì. Vi odiano, è logico, si vede benissimo. Sotto sotto sì, però questo aspetto un po' così cattivello della cucina ci sta, e c'è anche per esempio nei miei programmi, perché io ospito della gente comune e a casa, come del resto nei nostri studi, perché noi abbiamo uno chef nascosto dietro le quinte che può dire quello che vuole su quello che stiamo preparando, anche perché noi non lo sentiamo. E questo aspetto un po' cattivello di giudizio, di commento, questo lo so fare meglio io, è quello che dà un po' di, come dire, pepe. Quindi mi sembra di aver capito che esiste una parte autoriale importante, non trascurabile, il fatto di aver messo il cuoco ufficiale nascosto dietro le quinte, che pizzica la cuoca parvenue, che non è all'altezza della sua funzione, almeno dal suo punto di vista, fa sì che bisogna cominciare a raccontare storie. Antonella Di Lorenzo, vediamo di capire un po' allora se esistono delle tipologie classiche e come funzionano, visto che tu hai analizzato fortemente il genere. Allora, sicuramente parlavamo prima con Francesca Barberini, il gambero rosso è un'istituzione nella telecucina, è stato il primo carismatico nato nel 99, quindi comunque è, diciamo, dove si fa, tra virgolette, una cucina molto ma molto seria, dove si insegna davvero a cucinare. Adesso diciamo che, quindi appunto il gambero rosso diciamo che è un discorso a parte, adesso ci sono molti programmi di fantomatici di cucina, come ad esempio quelli di Gordon Ramsay, dove, come dicevi tu, insomma ci si arrabbia, ci sono delle urla, insomma c'è un aspetto molto marziale, no? Militaresco della cucina. Questo in realtà può essere molto uno show, poi Gordon Ramsay è un animale da palcoscenico, però in realtà nelle cucine dei ristoranti, molti non lo sanno, però c'è anche ovviamente una gerarchia, e si lavora a ritmi così serrati che a volte ci si ritrova in queste situazioni, sia quelle raccontate da Gordon Ramsay, quindi non è davvero... Quindi però vedi che è cambiato un po' lo scenario. Prima sì. Il programma di cucina era o Mario Soldati che andava in giro per le campagne, le langhe, le colline, le montagne, e raccontava la ricetta perduta della cucina di una volta. Poi le tante massaie, anche con volti noti, che insegnavano alle altrettante massaie cosa accadeva dentro le loro pentole. Poi Raffaella Carrà, quella che ha sdoganato il massaiaggio come categoria eccelsa dello spettacolo, la trasmissione fatta nell'orario in cui si cucinava, con l'immaginario legato ai fagioli, legato a tutto quello che poteva piacere a una casalinga. E poi alla fine i grandi personaggi vengono dalle cucine dei ristoranti. È un altro mondo, non c'entra nulla, il grande chef non c'entra nulla con la massaia, quindi si è molto diversificato questo universo. Sì, si è molto diversificato seguendo due linee. Una è innanzitutto le esigenze della televisione, quindi la televisione degli anni 50 è una televisione educativa, Rai istituzionale, che educa e insomma informa. In cui le donne poi, era logico, facevano i figli e stavano in cucina, non avevano altre dimensioni possibili, era la TV di Bernabei, quello dovevano fare le donne. Sì, infatti negli anni 50 la donna era, nel 50-60 era relegata in cucina, e quindi il suo unico obiettivo era appunto accudire la famiglia e cucinare per lei. Poi col passare del tempo le esigenze televisive sono cambiate, è nata la TV commerciale, quindi un programma di cucina, una delle veterane è Vilma De Angelis, un programma di cucina era molto improntato e diretto verso la promozione di un prodotto commerciale. Quindi diciamo che lì comincia un po' a velarsi, insomma, il product placement, cioè parlare della margarina, perché la margarina era lo sponsor, qualcosa del genere. Sono Alessandro e faccio lo chef. Alcune donne famose mi hanno aperto le porte di casa. Non le conoscevo. Loro sono andate a lavorare e io mi sono messo ai fornelli. Obiettivo? Farmi confessare qualche segreto. Con una cena speciale e l'atmosfera giusta. Achille Correa, quanto c'è di tutta la vecchia televisione fatta di ammiccamenti, fatta di detto e non detto, fatta di personaggi non millantari comunque, di essere tombeur de femme in questo cuoco che va a cogliere la parte segreta delle proprie spettatrici casalinghe? Beh, se non sbaglio, Borghese è figlio di Barbara Boucher, aiutatemi adesso, che è un ponte tra due... Che è la responsabile dei nostri cali di diottrie infatti, adolescenziali. Quindi c'è un ponte tra quelle che erano, diciamo, i Latin Lover, i vitelloni di una volta, e quello che è il grande Latin Lover vero presunto di questi anni, che è il cuoco. Ormai se un uomo non sa cucinare, non ti sa sciorinare almeno due o tre trame di cortesia per gli ospiti o qualche programma di Gordon Ramsay, diciamo, non ha nessuna possibilità di conquistare una donna. Quindi secondo me c'è effettivamente una volta c'era la commedia sexy, adesso c'è Borghese che seduce le casalinghe entrando in casa loro. Lui dice, un po' come l'idraulico in certi film che non nomineremo, entro in casa loro e mi faccio svelare i loro segreti. Antonella Lorenzo, ricordo che è autrice del libro Cuochi, Sorrisi e TV, che è una storia dei programmi di cucina che hanno fatto grande il piccolo schermo, quindi tutto l'escursus, gli antesignani di questa televisione gastronomica che analizziamo adesso, editori internazionali riuniti. Antonella, sei d'accordo con quello che ha detto Correa su questo elemento glamour legato alla cucina? Beh, sicuramente sì. Adesso ci sono così tanti programmi di cucina che ogni programma di cucina ha il suo carattere. Quindi ci sta il cuoco glamour, la cuoca che si identifica con la manager di oggi, insomma. Parlo di Benedetta Parodi, che ha dei figli e deve tornare a casa. Molti cuochi sono tutt'altro che dei maschioni sciupa femmine, diciamo anche questo, perché c'è spazio per tutti. Sì, Alessandro Borghese, diciamo che riesce a prendere un target abbastanza vario, che diciamo che comprende non solamente le donne che vedono in lui il Latin Lover, come dicevamo prima, ma anche gli uomini, i maschietti, che adesso in questo momento storico si mettono ai fornelli per sedurre una donna. Quindi non è più la cucina non è più rivolta solamente nell'atto pratico alle donne, ma anche agli uomini. C'è l'uomo che deve saper cucinare, per come ha detto Correa, un elemento seduttivo in più la quale non si può prescindere. Tu vedi un futuro per la cucina gastronomica? Perché alla fine, fra un po', il palinsesto, soprattutto le TV satellitari, sarà soltanto di quello. Se togli le malattie imbarazzanti, le case da incubo, i buboni e cose varie, un pochino di cose zozze nottetempo, alla fine è tutta cucina. Guarda, adesso andiamo e stiamo, insomma, navigando su un tipo di televisione chiamata una factual TV, ossia una televisione molto collegata agli atti, ai fatti e a risolvere dei problemi, quindi il problema della malattia, il problema della cucina, il problema di preparare una ricetta o un piatto in modo veloce, ad esempio spendendo pochissimo. Io credo che c'è comunque molta possibilità e molto spazio per tutti. Non penso che i programmi di cucina possano morire, ma sicuramente, come qualsiasi altro programma, prenderanno un'altra via, un'altra sfaccettatura, insomma. Ti ringrazio, Antonella, e ci sentiamo presto. Grazie mille a voi, ciao. Io sono tanto vecchio che spesso la morte mi tira per la cappa, perché io vado seco. E questa mia persona cascherà un dì come questa lucerna. E sarà spento il lume della vita. Fra le resurrezioni, insospettabile, mai pensabile, il fatto che la televisione ci riprovi con l'arte, con la cultura, con quello che non appartiene al più bieco materiale televisivo. Proprio ieri ha avuto il via il canale Sky Arte HD sui canali 130 e 400 di Sky, che è un canale dedicato alla pittura, scultura, musica, letteratura, teatro, design, forme espressive antiche e contemporanee. E sembra singolare, ma è stata fatta una ricerca, si è visto comunque esiste una fetta di potenziale pubblico televisivo che queste attività le pratica concretamente, realmente, che probabilmente considera la televisione come un semplice strumento per il proprio lettore di DVD. Roberto Pisoni, buongiorno. Buongiorno. Roberto Pisoni è il direttore di Sky Arte HD. nel momento in cui noi stiamo celebrando il declino, il tracollo, la morte, la scomparsa, lo strumento della televisione, la televisione si riappropria di una materia che era propria della televisione, almeno nel nostro paese, l'antesignani della televisione, la televisione dei primordi, la televisione comunque didattica di Ettore Bernabé, una televisione che dava molto spazio all'arte, alla cultura, alla letteratura. Il vostro tentativo in che direzione va invece? La direzione che vorremmo dare al canale è la direzione di un canale contemporaneo, quindi ovviamente lo spettro dei nostri contenuti è uno spettro molto ampio, però quello che vorremmo tentare di fare è di ragionare in maniera diversa sul linguaggio con il quale di solito vengono proposti questi contenuti, per dargli un taglio più vivo, contemporaneo e moderno. Beh, diciamo che la televisione pubblica affida a Gigi Marzullo il trattare di queste cose, quindi diciamo che c'è un vasto terreno di operatività. Come vedete il vostro utente medio? Chi secondo lei dovrebbe affacciarsi alla televisione e dire: oh, guarda, c'è un canale nuovo che si occupa di arte, di letteratura, di cultura, che è una parolaccia detta da un produttore televisivo, da un autore televisivo? Ma le analisi che abbiamo fatto testimoniano una grande attenzione a questi contenuti fuori dalla televisione, quindi c'è comunque, ci sono molte persone che sono interessati, che praticano la cultura, andando alle mostre, leggendo libri, andando al teatro, ai concerti. Vorremmo intercettare quel pubblico. Che sono quelli che hanno un pregiudizio, un preconcetto totale nei confronti della televisione, quelli che ti dicono: ah, io non l'accendo mai, io non ce l'ho nemmeno la televisione. Sono quelli che andate a voi a ripescare, penso. Quelli e parte anche del nostro pubblico, perché poi, come dire, la caratteristica del pubblico che guarda Sky è comunque molto affine a questo genere di contenuti. Sono già persone che hanno fatto una scelta, ecco, diciamo, sì, hanno acquistato una televisione, quindi hanno tutto l'interesse. Proprio per completare la nostra offerta, visto che questi contenuti non c'erano sulla nostra piattaforma, era proprio il nostro desiderio completarlo. L'abbiamo già fatto in parte con Dea Sapere, che si occupa più di materie scientifiche, e volevamo farlo anche con l'arte. Sì, questi sono, diciamo, i territori del sapere, di solito erano occupati dai canali che poi venivano tradotti in italiano, i canali stranieri. Uno diceva sempre: ah, mi vado a vedere quei bei documentari, quelle belle rassegne dei canali. Invece finalmente lo produciamo noi in Italia, un canale dedicato all'arte e alla cultura. Assolutamente sì. Ovviamente la nostra programmazione avrà contenuti che vengono dalle televisioni che fanno questi programmi di altissimo livello, BBC, PBS in America, Arte in Francia, però iniziamo da subito anche con delle produzioni originali, perché, come dire, è nostro desiderio sperimentare e tentare, come dicevo in precedenza, di costruire una grammatica anche per questi contenuti che vada al di là della semplice forma documentaria, che è quella classica. Grazie allora a Roberto Pisoni, ricordo direttore di Sky Arte HD. Grazie a Achille Corea, alle prossime avventure a questi microfoni. Abbiamo visto questa mattina il giorno dedicato ai defunti, la grande defunta televisione. Forse qualche segno di vivacità ancora può darlo, ma sei d'accordo o no te? Beh, secondo me l'importante è non vedere, diciamo, le nuove tecnologie come una contrapposizione, ma usarle. Forse la follia, permettimi di fare il critico televisivo per 10 secondi, era pensare che la cultura la dovesse fare Sgarbi su Rai 1 in prima serata. La cultura la faranno Rai 5, che manda l'opera lirica di sera per quei pochi o tanti che la vogliono vedere, e la farà magari Sky Arte per i suoi abbonati, senza cadere in quelle logiche per cui se non fai 3 milioni, se non fai 5 milioni sei fuori, come direbbe Briatore. Ecco, soprattutto cade al pregiudizio che la televisione è uno strumento soltanto popolare e la rete soltanto d'élite. Ci sentiamo la prossima settimana.